I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. È incredibile ma vero, quel sistema di scambio di messaggi e di foto sui cellulari che svaniscono in poche ore e usato in gran quantità dai nostri figli, vale 29 miliardi di dollari. Snap, la società a cui fa capo appunto l'application che si chiama Snapchat, si è quotata ieri al listino tecnologico di Wall Street e ha realizzato al debutto un balzo del 45%, portando il valore del titolo a 24,6 dollari dai 17 del valore iniziale. È il più grande collocamento di sempre nella borsa americana. La cosa più incredibile è che nel prospetto di quotazione la società ammette candidamente di non aver mai fatto utili e di non averne in programma a breve e scommette tutto sugli impressionanti multipli di crescita della pubblicità abbinata al sistema di messaggistica scomparsa. Tra gli analisti le perplessità sugli orizzonti di Snap restano e sono basati sull'annuncio fatto dalla stessa società della frenata nella crescita degli utenti, sui misteri della futura monetizzazione, sull'agguerrita concorrenza di app simili e infine su una struttura societaria che lascia un insolito grado di controllo ai fondatori, che sono il 26enne CEO Ivan Spiegel e il 27enne Chief Technology Officer Bobby Murphy, ormai nuovi miliardari di Wall Street, i quali controlleranno quasi il 90% dei diritti di voto. Il business della Snapchat è legato alla gestione dei big data che questo sistema di comunicazioni può generare con la geolocalizzazione dei suoi clienti. Non è la prima volta che la borsa scommette su titoli social. Anche Twitter, nel giorno del suo collocamento nel novembre 2013, aveva segnato un rialzo eccezionale dell'85% nella quotazione, fino a 70 dollari, ma va detto che oggi ne quota 15 e non riesce a valorizzare particolarmente il suo modello di business. Opposto il tragitto di Facebook, che esordì con un tonfo del 31% e oggi invece è un titolo scambiato a un valore superiore del 260% rispetto al debutto e la società oggi è ancora in ottima salute. Adesso l'importante per Snapchat è che l'euforia di borsa non svanisca come i suoi messaggini. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Abituati come siamo a vederci collocati sempre ai margini più bassi delle classifiche internazionali per competitività, libertà civili, tempi della burocrazia e così via, desta una certa sorpresa quando l'Italia balza invece in testa alle classifiche. La sorpresa è anche doppia, perché a dirlo è la più grande società del mondo per il turismo fiscale dei miliardari, ovvero ricolloca patrimoni e residenze in modo da minimizzare o addirittura annullare il carico fiscale sulle persone. Bene, questa società che si chiama Nomad International ha stilato una classifica, la classifica dei 199 paesi che sono più attraenti per averne un passaporto o per valore della persona. Che cosa significa in sostanza? 5 parametri, viaggi senza visto, tasse, percezione di se stessi, doppia cittadinanza, libertà garantite. Ecco, sorpresa, il primo posto è la Svezia, il secondo è il Belgio e l'Italia avrebbe proprio al terzo posto, cioè avere un passaporto italiano ci colloca al vertice di questa classifica dei paesi più attraenti come cittadinanze. La Germania viene al sesto posto e, sorpresa, gli Stati Uniti si collocano addirittura al 35esimo posto, seguiti dalla Slovenia, del Cile e da Cipro. La classifica probabilmente è stata fatta un anno scorso, quindi quando ancora c'era l'amministrazione Obama. Sarebbe interessante sapere se, con l'avvento di Trump, cambierebbe addirittura la posizione in classifica anche dell'America. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.